Benvenuti a The Debate. Oggi il nostro confronto si concentra su un testo che sta facendo molto discutere. Distant Writing, Literary Production in the Age of Artificial Intelligence, di Luciano Floridi. Un articolo che non si limita a descrivere un fenomeno, ma ha l'ambizione, direi, di ridefinire l'atto stesso della scrittura nell'era dell'intelligenza artificiale. Esattamente. Floridi introduce questo concetto che è tanto affascinante quanto, secondo me, controverso, il distant writing, o come lo chiama lui con un gioco di parole, writing. L'idea, in sostanza, è che lo scrittore non sia più l'artigiano che modella la frase parola per parola, ma diventi una sorta di metautore, un designer, ecco, che progetta, guida e dialoga con i large language models in un processo creativo continuo. Ed è proprio qui che, le nostre strade si dividono. La domanda che emerge da questo materiale è netta. L'articolo di Floridi ci offre davvero una cornice teorica solida e fondamentale per navigare il futuro. Oppure, e questa è la mia posizione, ci troviamo di fronte a un'elegante astrazione filosofica che, ignorando il mondo reale degli strumenti pratici, risulta concettualmente un po' prematura e di fatto incompleta. Io sosterrò la prima tesi. Credo fermamente che il saggio di Floridi fornisca una struttura concettuale di lungo respiro, una mappa essenziale per orientarsi in queste trasformazioni che definire epocali è dire poco. E io, al contrario, argomenterò che l'analisi, per quanto stimolante, nasce con un vizio di forma, diciamo. Una visione parziale, quasi elitaria, che non fa i conti con la realtà tecnologica e applicativa di come milioni di persone, già oggi, nel 2026, usano l'IA per scrivere. Ma è proprio questo il punto fondamentale. L'intento di Floridi non è scrivere un manuale d'uso per un software che magari tra 6 mesi sarà già obsoleto. La sua ambizione è molto più grande, quasi vertiginosa. Sta cercando di fondare una teoria della scrittura per un'era completamente nuova. È un'operazione filosofica, non tecnica. E per farlo introduce concetti che ritengo seminali. Parla di meta-autore, di data print stilistica per distinguere l'impronta di un'IA dalla voce umana e introduce un'idea potentissima, lo spazio narrativo che diventa uno spazio modale. Immaginiamo un universo di tutte le storie possibili. Lui lo definisce a isotropia sconfinata, che suona complesso, ma significa semplicemente che ogni direzione narrativa è ugualmente possibile. Non c'è un sentiero già tracciato. Ma soprattutto, e questo è cruciale, inserisce tutto questo in un contesto storico potente, quello che lui chiama la quarta rivoluzione. Con l'informatica ci sta spostando dal centro dell'infosfera. Non siamo più gli unici agenti capaci di processare informazioni in modo logico. Ecco, in un'epoca di obsolescenza tecnologica fulminea, offrire una mappa concettuale che possa durare è un contributo di gran lunga più prezioso che non un elenco di app. Capisco il fascino di questa visione dall'alto, davvero, ma una teoria della scrittura che ignora sistematicamente gli strumenti della scrittura mi sembra, nella migliore delle ipotesi, monca. La stessa analisi critica del saggio lo definisce filosoficamente ricco ma applicativamente limitato, e io sono profondamente d'accordo. Il discorso di Floridi si concentra quasi esclusivamente su LLM generalisti come GPT e Claude, applicati a un contesto molto specifico, quello della narrativa di finzione, ma così facendo lascia fuori un intero continente. Voglio dire, l'articolo non menziona, neanche di sfuggita, categorie intere di strumenti che sono la realtà quotidiana della scrittura assistita. Parliamo di piattaforme verticali per scrittori come Sudowrite o Novel Crafter, che non sono semplici chat. Parliamo di strumenti di ottimizzazione SEO come Frase.io. Parliamo di traduttori come DeepL, che stanno cambiando la circolazione globale dei testi. E potrei continuare con gli strumenti per la gestione delle citazioni accademiche o quelli per il rilevamento del plagio. Omettere tutto questo, non è una scelta di campo, è un atto che rende la sua definizione di distant writing un bellissimo costrutto accademico, ma lontano anni luce dalla pratica quotidiana di chi scrive per lavoro o per passione. Vedi, tu la definisci un'omissione, quasi una svista. Io invece ci vedo una scelta metodologica rigorosa e direi necessaria. Il nucleo della tesi di Floridi è il passaggio epocale da una logica della composizione a una logica dei requisiti. È un cambio di paradigma. Prima lo scrittore era un architetto che posava un mattone dopo l'altro. Ora, ci dice Floridi, lo scrittore diventa il committente dell'architetto. Non posa più i mattoni, ma definisce i requisiti, le specifiche del palazzo che vuole e li ha, lo costruisce. È uno spostamento fondamentale dal come si scrive al cosa si vuole che sia scritto. Se si fosse concentrato su Sudor White o Grammarly, la sua argomentazione sarebbe stata immediatamente datata, legata a contingenze commerciali. Scusami se ti interrompo, ma quando parli di scelta metodologica rigorosa, non ti sembra che questa scelta ignori deliberatamente proprio il campo che pretende di studiare? È come teorizzare la pittura del XXI secolo senza mai parlare di colori acrilici, di tavolette grafiche o di software di fotoritocco. È un'astrazione che rischia di diventare sterile. No, e ti spiego perché non la trovo sterile, ma fondativa. Infatti, Floridi non si limita alla teoria pura. Porta un esempio concreto con il suo esperimento Encounters, dove usa proprio il distant writing per esplorare le connessioni narrative tra personaggi minori della grande letteratura. È un'applicazione diretta del suo quadro teorico per rivelare quella che lui chiama la natura connessa della finzione. Non è una recensione di software, è la dimostrazione che il suo modello può generare nuova conoscenza critica. Qui tocchiamo un punto cruciale. L'esperimento Encounters è affascinante, non c'è dubbio. Ma è un'applicazione accademica, quasi un divertissement intellettuale. Come si applica questo modello a un copywriter che deve produrre 20 articoli SEO-oriented al giorno? O a uno studente che deve scrivere una tesi? La teoria di Floridi ha una risposta per loro? Temo di no. E questo mi porta a pensare che questa scelta metodologica non sia solo una scelta, ma il sintomo di una certa fretta, una corsa per piantare una bandiera concettuale, per occupare uno spazio di discussione pubblica con una terminologia nuova, prima ancora che il fenomeno stesso si sia consolidato. È un'osservazione acuta, però vorrei proporre una lettura diversa. Forse è proprio compito della filosofia fornire i concetti prima che la pratica, spesso caotica e guidata solo da logiche di mercato, definisca il campo in modo disordinato. In un territorio che si sta formando sotto i nostri piedi, una mappa, anche se provvisoria, è meglio di nessuna mappa. Pensa a un termine come data print, che distingue la firma stilistica di un LLM dalla voce di un autore. Sono strumenti critici essenziali che ci servono ora, non tra 5 anni. Floridi, infatti, non ignora la tecnologia. Analizza con precisione le differenze stilistiche tra la data print della serie GPT, che definisce più lirica ed espansiva, e quella della serie Claude, più diretta e pragmatica. Questa è un'attenzione al motore, non alla carrozzeria di un'applicazione. Ma un linguaggio che descrive solo una piccola penisola e la spaccia per l'intero continente rischia di essere fuorviante. L'articolo descrive un processo di raffinamento progressivo, ma sembra non accorgersi che piattaforme come le già citate Sudor White o Novel Crafter hanno già industrializzato questo esatto processo. Hanno interfacce dedicate, motori di trama, gestione di story bibles per la coerenza. Non sono dettagli tecnici, sono workflow, sono pratiche incarnate che la teoria di Floridi, così astratta, semplicemente non riesce a cogliere. La distinzione netta che lui propone tra close writing e distant writing viene definita, e ha ragione, operativamente incompleta, perché la pratica reale è un ibrido costante, una negoziazione continua tra questi due modi. Lo scrittore di oggi scrive una frase, chiede un suggerimento all'IA, lo modifica, scrive un altro paragrafo. È un flusso, non un'alternanza tra due mondi. Ma questa ibridazione non smentisce la sua tesi, anzi, forse la rafforza. Il punto di Floridi è che si è aperta una nuova possibilità, una nuova modalità. Il fatto che nella pratica si mescoli con la vecchia non ne diminuisce la portata rivoluzionaria. È come quando fu inventata l'automobile. Per decenni le persone hanno continuato a usare anche i carri a cavalli, ma la logica dominante, quella che avrebbe plasmato il futuro, era quella del motore a scoppio. Allo stesso modo, Floridi ci avverte di una trasformazione culturale profonda. Stiamo passando dal pensare scrivendo al pensare attraverso il writing. È un cambiamento che riguarda la cognizione prima ancora che la produzione di testi, e questo richiede un'analisi di alto livello. Eppure questo alto livello continua a ignorare gli usi più diffusi ed impatto. L'analisi critica lo sottolinea chiaramente. La stragrande maggioranza dell'uso reale dell'IA nella scrittura non riguarda la creazione di multiverse literature, come immagina Floridi. Riguarda il content marketing, la scrittura tecnica, il copywriting, la produzione accademica. Il suo modello non ha nulla da dire sugli strumenti di ottimizzazione SEO, sulla traduzione multilingue, sulla gestione automatica delle citazioni in stile APA o sulla formattazione per il self-publishing. Di conseguenza, il suo concetto di distant writing appare non solo astratto, ma anche, direi, elitario. Sembra disegnato su misura per un romanziere sperimentale o un filosofo, mentre la vera rivoluzione, quella che sta cambiando l'economia della conoscenza, avviene in ambiti molto più pragmatici, che il suo modello semplicemente esclude. Ammetto che il focus sia prevalentemente sulla produzione letteraria, ma non lo vedo come un limite, bensì come la scelta di un laboratorio ideale. La letteratura è storicamente il luogo dove le trasformazioni del linguaggio e della creatività si manifestano nella loro forma più pura. Studiare l'impatto dell'IA lì significa andare al cuore del problema della creatività e dell'autorialità. Ciò che impariamo analizzando la data print di un LLM in un racconto ci fornirà gli strumenti critici per comprendere domani l'impatto di un'IA che scrive report finanziari. Partire dalla letteratura non è elitarismo, è una strategia di ricerca. Una strategia che però rischia di non vedere la foresta perché troppo concentrata su un singolo albero, per quanto affascinante sia. Il rischio, per concludere il mio pensiero, è che costruendo una teoria così selettiva si finisca per discutere per anni di meta-autori e spazi modali, mentre la realtà quotidiana della scrittura viene trasformata da forze e strumenti che questa teoria non ha nemmeno iniziato a nominare. È una teoria che arriva troppo presto per descrivere la pratica, ma forse, e questo è il mio timore, anche troppo tardi per orientarla. In sintesi, per me il valore dell'articolo di Floridi risiede proprio nella sua coraggiosa ambizione di fornire una struttura filosofica robusta per un cambiamento d'epoca. Non va letto come una guida pratica, ma come un testo fondativo che ci offre il vocabolario e la prospettiva storica, quella della quarta rivoluzione di cui abbiamo bisogno per una discussione consapevole. È un invito a progettare questo futuro anziché subirlo passivamente. Per concludere, dal mio punto di vista, sebbene l'articolo sia intellettualmente provocatorio, la sua visione del distant writing rimane parziale e idealizzata, omettendo sistematicamente l'ampio ecosistema di strumenti che già oggi, nel 2026, definiscono la scrittura assistita. La teoria di Floridi si rivela un'elegante astrazione, utile forse in un dibattito accademico ristretto, ma poco rappresentativa della rivoluzione pragmatica e multiforme che sta già trasformando il modo in cui milioni di persone producono testi ogni giorno. Questo nostro confronto, mi sembra, mette in luce una tensione fondamentale, quella tra la necessità di quadri teorici ampi per interpretare il cambiamento e l'urgenza di analizzare le pratiche materiali e gli strumenti concreti che quel cambiamento lo realizzano. Concordo. E il materiale che abbiamo analizzato oggi, dimostra proprio questo. Offre spunti fecondi per continuare a esplorare come la teoria e la pratica debbano dialogare e forse anche scontrarsi, per permetterci di comprendere appieno l'impatto, ancora tutto da scoprire, dell'intelligenza artificiale sulla nostra cultura.